Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Decima puntata. Mia madre, ora che c'erano più soldi in casa, si faceva vestiti. Era questa, oltre al pianoforte e al russo, una sua costante occupazione e, in fondo, un modo per non stufarsi. Perché mia madre, poi, quei vestiti che si faceva, non sapeva quando metterli, dato che non aveva mai voglia di andare da nessuno, se non dalla Francis o dalla Paola Carrara, persone da cui poteva anche andare col vestito che aveva in casa. Mia madre i vestiti se li faceva fare o dal signor Belhomme, che era un vecchio sarto, il quale era stato da giovane un pretendente di mia nonna a Pisa, quando lei cercava marito e però non voleva gli avanzi di Virginia, oppure se li faceva fare in casa da una sartina che si chiamava Tersilla. In casa ora non veniva più Larina, scomparsa nella notte dei tempi, ma mio padre, quando incontrava la Tersilla nel corridoio, si infuriava come si infuriava in passato vedendo Larina. La Tersilla era però più coraggiosa della Larina e salutava mio padre passandogli accanto con le sue forbici alla cintura, col suo sorriso educato nel viso piemontese, minuto e roseo. Mio padre le rispondeva con un freddo cenno del capo. «C'è la Tersilla! Ma come? Anche oggi c'è la Tersilla!» urlava poi a mia madre. «È venuta, diceva mia madre, per rivoltarmi un vecchio paltò, un paltò del signor Belhomme». Mio padre, a quel nome di Belhomme, taceva rassicurato, perché aveva stima del signor Belhomme, che era stato un pretendente di sua madre. Non sapeva però che il signor Belhomme era uno dei sarti più cari di Torino. Mia madre, tra il signor Belhomme e la Tersilla, oscillava ora verso l'uno, ora verso l'altra. Quando si faceva fare un vestito dal signor Belhomme, trovava poi che non era tanto ben tagliato e che le tornava male di spalle. Allora chiamava la Tersilla e glielo faceva disfare e rifare tutto da capo. «Non andrò mai più dal signor Belhomme. Mi farò fare sempre tutto dalla Tersilla», dichiarava provandosi allo specchio il vestito scucito e rifatto. C'erano però vestiti che non le andavano mai bene. Le facevano sempre difetto. Allora li regalava alla Natalina. La Natalina aveva ora anche lei moltissimi vestiti. Usciva la domenica con un lungo paltò del signor Belhomme, nero, tutto abbottonato, che la faceva rassomigliare a un parroco. La Paola si faceva anche lei molti vestiti. Era però sempre, riguardo ai vestiti, in polemica con mia madre. Diceva che mia madre si faceva vestiti sbagliati, che se ne faceva tanti tutti uguali, e un vestito del signor Belhomme se lo faceva poi copiare dalla Tersilla 100 volte fino alla nausea. Ma a mia madre piaceva così. Mia madre diceva che quando aveva i bambini piccoli gli faceva sempre fare tanti grembiali tutti identici e voleva ora avere come i suoi bambini per l'estate e per l'inverno tanti grembiali. La Paola, questa concezione dei vestiti come grembiali, non la convinceva affatto. Se la Paola veniva da Milano con un vestito nuovo, mia madre l'abbracciava e diceva: «Io ai miei figli, quando hanno un vestito nuovo, gli voglio più bene». Però le veniva subito voglia di farsene uno nuovo anche lei. Non simile, perché i vestiti della Paola le sembravano sempre troppo complicati. Lei se lo faceva fare più stile grembiale. Lo stesso le succedeva con me. Quando mi faceva fare un vestito, immediatamente le veniva voglia di farsene anche lei uno. Però non me lo confessava, né lo confessava alla Paola, perché io e la Paola usavamo dirle che si faceva troppi vestiti. Riponeva la stoffa, ben piegata, nel suo comò, e vedevamo quella nuova stoffa, un mattino, tra le mani della Tersilla. Le piaceva avere la Tersilla in casa anche perché amava la sua compagnia. «Lidia! Lidia, dove sei?» tuonava mio padre rientrando. Mia madre era nella stanza da stiro a discorrere con la Natalina e la Tersilla. «Stai sempre con le serve!» urlava mio padre. «Anche oggi c'è la Tersilla!» «Cosa avrà da fare Mario sempre con quel russo?» diceva ogni tanto mio padre. «Nuovo astro che sorge?» diceva quando aveva incontrato Mario con Ginzburg sul corso. Tuttavia vedeva ora Ginsburg in miglior luce e non gli ispirava grande sospetto, avendolo trovato una volta nel salottino della Paola Carrara insieme a Salvatorelli. Non capiva però cosa avesse Mario da spartire con lui. «Cosa avrà da fare con quel Ginsburg?» diceva. «Cosa diavolo si diranno?» «È brutto», diceva mia madre parlando di Ginsburg, «perché è un ebreo sefardita. Io sono un ebreo a schiena zitta e per questo sono meno brutto». Mio padre si esprimeva sempre in modo abbastanza favorevole sugli ebrei a schiena ziti. Adriano, invece, usava parlar bene dei mezzo sangue, che erano, diceva, le migliori persone. Fra i mezzo sangue, quelli che gli piacevano di più, erano i figli di padre ebreo e madre protestante, come era lui stesso. Si faceva a quel tempo a casa nostra questo gioco. Era un gioco che aveva inventato la Paola e lo facevano soprattutto lei e Mario. Vi partecipava tuttavia a volte anche mia madre. Il gioco consisteva nel dividere la gente che si conosceva in minerali, animali e vegetali. Adriano era un minerale vegetale. La Paola era un animale vegetale. Gino era un minerale vegetale. Rasetti, che d'altronde non vedevamo da tanti anni, era un minerale puro. E così anche la Francis. Mio padre era un animale vegetale e così mia madre. «Vaniloquio!» diceva mio padre cogliendo al passaggio qualche parola. «Sempre questo vostro vaniloquio!» Quanto ai vegetali puri, i fantastici puri, ce n'erano pochissimi al mondo. Forse vegetali puri erano stati soltanto alcuni grandi poeti. Per quanto cercassimo, non trovavamo un solo vegetale puro tra i nostri conoscenti. La Paola diceva che questo gioco era stata lei a inventarlo, ma qualcuno le aveva poi detto che una suddivisione di questa sorta l'aveva già fatta Dante nel De Vulgari Eloquentia. Se fosse vero, non lo so. Alberto andò a fare il servizio militare a Cuneo e ora Vittorio passeggiava solo sul corso perché lui il servizio militare l'aveva già fatto. Mio padre, rientrando, trovava mia madre intenta a sillabare in russo. «Uff, questo russo!» diceva. Mia madre seguitava, anche a tavola, a sillabare in russo e a recitare poesiole russe che aveva imparato. «Basta con questo russo!» tuonava mio padre. «Ma mi piace tanto Beppino!» diceva mia madre. «È così bello! Lo studia anche la Francis!» Un sabato Mario non venne, come sempre, da Ivrea e neppure comparve la domenica. Mia madre però non stava in pensiero perché già altre volte non era venuto. Pensò che fosse andato a trovare quella sua amante così magra in Svizzera. Il lunedì mattina vennero Gino e la Piera a dirci che Mario era stato arrestato sul confine svizzero insieme a un amico. Il luogo dove l'avevano arrestato era Ponte Tresa e non si sapeva altro. Gino aveva avuto questa notizia da qualcuno della filiale Olivetti di Lugano. Mio padre quel giorno non era a Torino e arrivò la mattina dopo. Mia madre ebbe appena il tempo di raccontargli cos'era accaduto. Poi la casa si riempì di agenti di questura venuti a fare una perquisizione. Non trovarono nulla. Noi, il giorno prima, con Gino, avevamo guardato dentro i cassetti di Mario se non c'era qualcosa da bruciare, ma non avevamo trovato nulla, se non tutte le sue camicie, la sua robina, come diceva la mia zia Drusilla. Gli agenti se ne andarono e dissero a mio padre che doveva seguirli in questura per un accertamento. Mio padre, la sera, non era ancora rientrato e così capimmo che l'avevano messo in carcere. Gino, tornato a Ivrea, era stato arrestato là e poi trasferito anche lui alle carceri di Torino. Poi Adriano venne a dirci che Mario, passando per il Ponte Tresa in automobile con quel suo amico, era stato fermato da guardie della dogana che cercavano sigarette e queste avevano perquisito l'automobile e vi avevano trovato opuscoli antifascisti. Mario e il suo amico erano stati fatti scendere e le guardie li stavano accompagnando al posto di polizia e passavano lungo il fiume. Mario d'un tratto s'era svincolato, s'era buttato nel fiume vestito com'era e aveva nuotato verso il confine svizzero. Guardie svizzere, all'ultimo, gli erano venute incontro con una barca.